siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore. A Londra il caldo deve ancora arrivare, quel 18 giugno 1982. Il vento che viene dal nord soffia forte, increspa le acque scure del Tamigi. Sotto il ponte dei Frati Neri viene trovato impiccato il banchiere del Banco Ambrosiano Roberto Calvi. È l'epilogo di una delle più travagliate avventure finanziarie avvenute nel nostro paese. Nato a Milano nel 1920, Roberto Calvi entra al Banco Ambrosiano nel 1947 come impiegato. La lunga marcia verso il vertice dell'istituto comincia negli anni 70, quando viene già definito un banchiere emergente. Il 15 ottobre 1975 Calvi è nominato presidente dell'Ambrosiano. La scalata sembra inarrestabile. Presidente della centrale finanziaria, membro del consiglio di amministrazione e vicepresidente dell'Istituto Centrale Banche e Banchieri, consigliere del comitato esecutivo del Credito Varesino, presidente del Banco Ambrosiano Overseas Limited di Nassau. Nel 1978 l'Ambrosiano subisce un'ispezione dalla vigilanza della Banca d'Italia, che dura 6 mesi. Calvi viene inquisito per sospette esportazioni di valuta e nel 1980 si vede ritirare il passaporto. Banca d'Italia e Tesoro approvano comunque l'aumento di capitale dell'Ambrosiano a 50 miliardi di vecchie lire. Calvi decide di espandersi anche nel settore editoriale. Il 22 aprile 1981 la finanziaria acquista il 40% della Rizzoli S.p.A. Diventa così controllore del gruppo che detiene anche il Corriere della Sera. Giorni dopo l'operazione centrale Rizzoli, la commissione parlamentare d'inchiesta che indaga sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2, Propaganda 2. Sono documenti sequestrati a Castiglion Fibocchi, nella villa di Licio Gelli. Anche Roberto Calvi è iscritto alla loggia, così come i massimi vertici degli apparati dello Stato, politici, faccendieri. In 34 buste sigillate è contenuta la documentazione relativa ai rapporti fra Roberto Calvi e Licio Gelli. Il venerabile, l'uomo che si definisce il burattinaio. E in questa dichiarazione fa intravedere che nella P2 c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone. Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2. Sì. Arriva a tutti. Ah, lei dice che molte persone erano coinvolte in questa ragnatela. Arrivano a tutti, vedi. Ma chi manca ancora? Chi ne mancano ancora, ma ce ne sono. Il 20 maggio 1981 scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa è di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni nel carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio e ottiene poi la libertà provvisoria. Mesi dopo rientra al vertice della banca. 27 aprile 1982, il boss della banda della Magliana, Danilo Bruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. A Bruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Siamo al 5 maggio dell'82, la Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo Ambrosiano. 17 giugno 1982, le quotazioni poi vengono sospese. Roberto Calvi in quelle ore è già irreperibile. La sua segretaria Graziella Corker si suicida. Il giorno dopo viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Omicidio o suicidio? E allora mettiamo in fila tutti i fatti. Prima scena, la fuga. Le 6:30 del 10 giugno 1982 l'autista si reca nell'abitazione di Calvi, ma il banchiere non c'è. L'11 giugno è già a Trieste. Al suo arrivo il banchiere viene preso in consegna da Silvano Vittor, profondo conoscitore dei valichi di frontiera. Attenzione, deve essere Calvi in condizione di espatriare illegalmente. La destinazione è Klagenfurt, Austria. Il banchiere ora ha in tasca un nuovo documento d'identità a nome Calvini. Raggiunge Klagenfurt. Calvi telefona alla figlia Anna. Sono stanco morto, dice. La sera del 13 giugno dell'82, insieme a Vittor, raggiunge in auto Innsbruck. Poi vola a Londra su un velivolo privato. Insieme a Calvi c'è ancora Silvano Vittor. Per entrambi, in Chelsea Closter Avenue, c'è una prenotazione all'appartamento 881. Sera del 17 giugno 1982, alcuni uomini prelevano Roberto Calvi, lo caricano su una macchina con autista dal forte accento siciliano e lo trasportano sulla riva del Tamigi. Seconda scena, il ritrovamento. L'alba del 18 giugno dell'82, un impiegato delle poste britanniche si reca al lavoro, percorre la riva del Tamigi, nota un corpo che pende da una corda legata da un traliccio del ponte di Frati Neri. Due autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria inglese giungono a conclusioni diverse. Una stabilisce che Calvi si è suicidato, l'altra lascia il verdetto aperto, suicidio oppure omicidio. Terza scena, l'inchiesta giudiziaria italiana. Il giudice istruttore del Tribunale di Milano sostiene la tesi del suicidio, ma non esclude la possibilità che il banchiere sia stato assassinato. 1988, processo civile, intentato dalla moglie del presidente dell'Ambrosiano Clara Calvi contro le assicurazioni generali. Il Tribunale di Milano sostiene che Roberto Calvi è stato ucciso. 1992, la Cassazione trasferisce l'inchiesta sulla morte di Calvi da Milano a Roma. 1997, il GIP del Tribunale di Roma Almerighi emette un'ordinanza di custodia cautelare in accusa di omicidio a carico del boss mafioso Pippo Calò e del faccendiere Flavio Carboni. Quarta scena, siamo alla svolta, 1998, Otello Lupacchini, nuovo GIP del Tribunale di Roma, ordina una nuova perizia sulle cause della morte di Calvi. Il GIP chiude l'inchiesta e la passa ai sostituti procuratori della Repubblica di Roma, Tescaroli e Monteleone. Per loro Calvi è stato ucciso. Il reato è omicidio aggravato e premeditato. Chiedono il rinvio a giudizio per il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò, il potente faccendiere Flavio Carboni, l'esponente della banda della Magliana Ernesto Diotallevi, e della loro compagna di Carboni, l'austriaca Emanuele Klenzig. Si ricomincia da zero. 21 anni dopo la morte del banchiere Calvi, anche Scotland Yard riapre l'indagine. Quinta scena, siamo al movente. Dice il pentito Antonino Giuffrè in un verbale segretato: le disavventure di Calvi sono iniziate quando ha investito senza oculatezza grosse somme di denaro di Pippo Calò. Le cose della mafia si risolvono solo in un modo, con l'eliminazione. Sesta e ultima scena, i protagonisti, secondo l'accusa. Pippo Calò, incaricato di gestire ed investire grandi quantitativi di denaro sporco della mafia, impartirebbe l'ordine a due killer della camorra di uccidere Roberto Calvi e di simulare il suicidio. Flavio Carboni organizzerebbe la fuga di Calvi dall'Italia, curerebbe ogni dettaglio degli spostamenti, farebbe in modo che il banchiere venga prelevato dagli esecutori materiali dell'omicidio. Manuela Klenzig si occuperebbe della logistica collaborando con Flavio Carboni nell'organizzazione della fuga di Calvi. Ernesto Diotallevi, faccendiere legato alla banda della Magliana, sarebbe invece l'uomo di collegamento tra Pippo Calò, il presunto mandante, e Flavio Carboni, il presunto organizzatore dell'omicidio. Tutto chiaro? In un'udienza del processo sul crack del Banco Ambrosiano è il faccendiere Flavio Carboni a descrivere amici e nemici di Roberto Calvi. La posizione di Calvi come banca privata certo non poteva essere, quindi, come presenza economica importante per avere anche svolto attività finanziarie, voi in favore di Solidarnosc, voi in favore di altri paesi, certamente era in conflitto, in netto conflitto con altre forze, quindi per esempio le forze massiste. Quindi Calvi si sentiva un difensore, ecco, delle opposte ideologie, come tale contrastato dalle altre, ovviamente, da un lato. Dall'altro a lui attribuiva anche una certa convergenza di interessi anche da, forse diciamo così, tradizionalmente non affini. Per esempio, gli diceva, da una parte ci sono quindi questi, dall'altra mi vedo esposto come uditore, perché il giornale che io in qualche modo potrei governare e che non mi fanno governare fa gola a molti, o il giornale o l'abbattimento del giornale per la conquista dello spazio, diciamo così, che il Corriere allora occupava, e quindi altri nemici. Alessandro Gamberini, l'avvocato che difende la moglie di Roberto Calvi, Clara, il figlio Carlo. Le abbiamo chiesto, per concludere, cosa si aspetta dall'apertura dell'inchiesta inglese sulla morte del banchiere Roberto Calvi. Scotland Yard, non dimentichiamoci che chiuse frettolosamente l'inchiesta sulla morte del banchiere Calvi nell'immediatezza del fatto, archiviandola come suicidio. Nonostante che le evidenze, quelle che saranno poi le evidenze medico-legali, anche recentemente ribadite e acquisite, e anche complessivamente la verosimiglianza della dinamica di questa morte conducessero a ritenere che di suicidio non si trattava. È una fretta che è apparsa a tutti e anche alla famiglia come sospetta. Ora, non dimentichiamoci che si tratti non di suicidio ma di omicidio, non solo fu molto verosimile e evidente alla consapevolezza di tutti, anche quando non c'erano dati sui quali poter riferire la certezza del fatto, ma quando nel corso di una causa civile durante gli anni Ottanta che riguardava la corresponsione di un'assicurazione sulla vita alla famiglia fu esperita sul punto una perizia, il Tribunale Civile di Milano sostenne, e ormai è una vicenda risalente a oltre 15 anni fa, sostenne che di omicidio si trattava, e neanche allora Scotland Yard riaprì la vicenda. Oggi la riapre, certo la riapre anche alla luce di una decisione dell'autorità giudiziaria penale italiana che ha un peso ovviamente significativo, alla luce evidentemente noi non lo sappiamo perché su questo piano c'è un'indagine ancora riservata della Procura della Repubblica di Roma, forse alla luce di istanze rogatorie che sono state fatte dall'autorità giudiziaria italiana, però aspettarsi che da quell'indagine, da questa riapertura inglese possa venire un'illuminazione sulla vicenda, ecco, mi sia consentito essere scettico se, visti i precedenti.